Io sono contro di te, infame infatuato, se l'odio per te, sulla mia pelle tatuato, non compi il tuo dovere, nell'auto bianco blu, stronzo, la volante non vola più. Io sono contro di te, infame infatuato, se l'odio per te, sulla mia pelle tatuato, non compi il tuo dovere, nell'auto bianco blu, stronzo, la volante non vola più. FUB, io contro lo Stato organizzato, e di conseguenza io contro lo Stato e l'ha puntato. Se non hai appuntato, che non infami non parliamo, è una serie a puntate, perché ancora non finiamo. Ascoltate, voi scontate, ma non mai rime scontate. Sto Stato lo abitate, ma le colpe le avvallate. Segreto di Stato, se il genocidio lo nascondi, in tribunale gli imputati appuntati sono assolti. E non dei morti, ci pensi solo agli soldi che ti paga nello Stato che non pensa a quelle morti. Morti innocenti, per sbagli irreversibili, parete fantasmi per i colleghi invisibili. Perché se sbagli tu, fa niente, non c'è gabbio. I tuoi sbagli li ricordi col cazzo che li insabbio. Lo Stato ti protegge per ogni tuo errore, se ne fotte di famiglie che vivono il dolore. Io sono contro di te, infame infatuato, se l'odio per te, sulla mia pelle tatuato, non compi il tuo dovere, nell'auto bianco blu, stronzo, la volante non vola più. Io sono contro di te, infame infatuato, se l'odio per te, sulla mia pelle tatuato, non compi il tuo dovere, nell'auto bianco blu, stronzo, la volante non vola più. Io sono contro di te, infame infatuato, se l'odio per te, sulla mia pelle tatuato, c'è anche FUB, io contro lo Stato ancora. Mi piacerebbe eliminarvi, ma non ho una pistola. Tu usi la beretta, io le parole come arma. Se tu uccidi niente pena, quindi io perdo la calma. Sulla strada dopo il bang è stesa un'altra salma, mentre tu in vacanza drinki in mano sotto una palma. Perché se contro lo Stato ci sarà pure un motivo, senza divisa tu non conti, quindi io ti derido. Tu con la divisa impaurito per gli sguardi loschi, come Cappuccetto Rosso quando girava tra i boschi. E intanto tu continui ad ammazzare senza alcun rimpianto, e tuoi colpi di pistola pompano più del mio impianto. Spari a muzzo e la gente resta in pianto, intanto tu rimani polvere soltanto. Io sono contro di te, infame infatuato, se l'odio per te, sulla mia pelle tatuato, non compi il tuo dovere, nell'auto bianco blu, stronzo, la volante non vola più. Io sono contro di te, infame infatuato, se l'odio per te, sulla mia pelle tatuato, non compi il tuo dovere, nell'auto bianco blu, stronzo, la volante non vola più. E non seguono tutti questi falsi miti, perché ancora hanno giustizia per Filippo Raciti. Ti fissa spariti quando sparate agli viti, quando sparate alle vite, tanto non siete puniti. E allora anche la gente che si vince la divisa, la perizia è un'ingiustizia verso Massa Teresa. Non mi scende giù che tu garante dello Stato, ti senti italiano in uno Stato mai condannato. Scuola di polizia se ti insegnano a premere il grilletto, a sparare e ad uccidere, zero rispetto. Io non mi aspetto che io vi debba temere, sta a sentire infame, la mia vita non voglio perdere. Sistematicamente, se il sistema è buono mente, va male lo sa, ma è solo lui che non lo sente. Disprezza l'uniforme, odia le manette, manda a fottere il sistema che sta male, non lo ammette. Io sono contro di te, infame infatuato, se l'odio per te, sulla mia pelle tatuato, non compi il tuo dovere, nell'auto bianco blu, stronzo, la volante non vola più. Io sono contro di te, infame infatuato, se l'odio per te,